Grazie Alfredo. Abbiamo ripreso dopo questa annacquatura e non so se parla Marco Revelli. Arriva, forse vuoi più vicino. Ma Alberto... No, non arriva, prendo questo. Alberto Burgio ha lanciato un bel guanto di sfida, un guanto di sfida pesante, e io lo raccolgo ben volentieri. Lo raccolgo ben volentieri nel senso che credo che il problema che lui ha posto, problema tra politico e sociale, sia effettivamente il problema dei problemi, sia quello intorno a cui oggi si avvolge la nostra discussione, si definiscono i nostri confronti e i nostri scontri. Credo però che il modo con cui Alberto ha posto la questione del rapporto tra politico e sociale non sia giusto. Non condivido, innanzitutto dal punto di vista di metodo, la contrapposizione o il gioco tra politico e sociale così come se fossero categorie eterne, astoriche, non mutate nel corso del tempo. Io credo che questo modo in cui lui l'ha posto, l'idea di un politico o della politica come risorsa salvifica, come risorsa capace di emancipare il sociale dal suo inevitabile particolarismo, l'idea della incapacità in sostanza del sociale di autofondare se stesso, sia un tipo di rapporto che si è stabilito tra queste categorie, in particolare il tipo di rapporto che si è stabilito in questo secolo, o meglio, il tipo di rapporto che ha vinto nel Novecento e che ha dominato, perlomeno dal 1910-1920, il momento in cui si è definita questa questione, fino a un decennio fa. È il Novecento il secolo in cui lo Stato si pone come monopolista della socialità, in contrapposizione con la asocialità del mercato, che lo Stato colonizza e monopolizza la sfera pubblica, diventa l'unica sfera pubblica, l'unico luogo in cui si può porre le questioni dal punto di vista dell'universale e quindi realizzare i livelli avanzati di eguaglianza. Ma questo modello, che è quello tipicamente socialdemocratico, e quando uso il termine socialdemocratico riconduco tutte le diverse anime della socialdemocrazia novecentesca, compresa l'anima più radicale, compresa quella rivoluzionaria, compreso il leninismo e il bolscevismo, modello socialdemocratico come modello di progetto di trasformazione radicale della società, più o meno radicale della società, fondato sull'asse conflitto di fabbrica, partito di massa, Stato. Conflitto di fabbrica come luogo di liberazione di energie conflittuali e di unificazione della classe operaia, di disciplinamento della classe operaia, di uniformazione, di composizione e ricomposizione della classe operaia, partito di massa come grande collettore di queste energie liberate dal conflitto, come contenitore di queste energie, Stato come luogo in cui, come macchina all'interno della quale riversare queste energie per poi farla retroagire sulla società e modificarla nel senso di un progetto di società giusta, di società equa. Ecco, questo era il modello che assegnava al politico un primato assoluto e che poneva il sociale in qualche modo come luogo incapace di autofondazione. Modello tipicamente novecentesco, non è stato il modello dell'Ottocento, per esempio, non è stato il modo con cui ha ragionato Marx, anzi Marx si è contrapposto a Hegel esattamente su questo terreno. All'Hegel che proponeva appunto lo Stato come condizione dell'universalità in contrapposizione alla società civile come il sistema dell'atomismo, Marx contrapponeva l'idea dei soggetti della società civile capaci di porsi essi stessi dal punto di vista dell'universale. L'Ottocento era questo, l'esperienza del movimento operaio ottocentesco è stata una grande esperienza di autofondazione del sociale, della propria autonomia nel sociale, della propria capacità di porsi addirittura come propulsori e produttori di forme di giuridiche, di giuridicizzazione dei rapporti a partire dal basso. Pensiamo a tutti gli statuti, alla ricchezza degli statuti delle società di mutuo soccorso, delle leghe e così via. È il Novecento che ha operato un durissimo processo di semplificazione del sociale, di distruzione della sua autonomia, delle sue autonomie, di riconduzione di questo alle forme uniformanti del lavoro massificato, della politica massificata e della statualità sotto forma di socialità dello Stato. Ora, si può essere a favore o contro questo processo? Io personalmente mi sono sempre identificato con l'altro movimento operaio, mi sono identificato con quei movimenti che hanno resistito a questo processo di imposizione del politico sotto forma di statualità sulle autonomie dei movimenti. Mi sono posto dalla parte di spartachisti contro Noschke e contro Ebert. Noschke e Ebert erano l'autonomia del politico che si affermava sul sociale e ne affermava duramente il processo di unificazione dall'alto. Mi sono identificato con i marinai di Kronstadt contro il governo bolscevico. Mi sono identificato con tutto ciò che proveniva dal basso. Ma credo che non sia necessario appartenere a questa identità e a questa identificazione per riconoscere che oggi quel modello sta saltando, che oggi non è più proponibile, proprio in rapporto alla griglia di processi che Aldo Bonomi ci proponeva in apertura, processi di mondializzazione, globalizzazione, transizione da fordismo al postfordismo, processi relativi alla trasformazione dello Stato sociale, processi relativi alle nuove forme e ai nuovi ruoli che assume la socialità in questo contesto, tutti e tre questi livelli, questi processi, vanno a colpire, a mio avviso, alle radici l'operatività del paradigma socialdemocratico come paradigma centrale della sinistra e comunque dell'insieme di quelle forze che si propongono la trasformazione della società. Sicuramente il processo di transizione dal fordismo al postfordismo, da qualunque posizione noi la guardiamo, da qualunque postazione noi la guardiamo, che noi la guardiamo dalle antiche roccaforti del fordismo, come la guardo io da Torino, assistendo ai processi violenti di delocalizzazione, di transnazionalizzazione della grande fabbrica fordista e alla sua scomposizione in una miriade di filiere dal raggio sempre più lungo, dal raggio cittadino al raggio regionale, al raggio nazionale, al raggio globale. Oggi il processo produttivo della grande fabbrica, della ex grande fabbrica fordista, è comunque un processo lenticolare, disarticolato, frantumato, frammentato e delocalizzato, sia che noi lo guardiamo da una metropoli di riproduzione e di servizi come questa, sia che noi lo guardiamo dal nord-est, dal cuore dei distretti industriali, dove il territorio, il reticolo territoriale è messo brutalmente al lavoro direttamente, sia che noi lo guardiamo da qualunque di questi punti, mi pare evidente che è in atto un processo di violenta scomposizione di una composizione di classe che fino a un ventennio fa era fortemente uniformata dallo stesso processo di accumulazione capitalistica, dalla stessa fabbrica capitalistica, che è sempre più difficile ricomporre le figure produttive o la figura produttiva centrale a partire dal cuore dei processi di accumulazione capitalistica e con gli strumenti tradizionali del sindacato confederale, del partito di massa e così via, che assistiamo a una proliferazione di figure del lavoro che, come ha dimostrato benissimo Aldo Bonomi nel suo libro, si articolano lungo un ventaglio sempre più ampio che recupera al proprio interno figure precapitalistiche, paleocapitalistiche, protocapitalistiche, postcapitalistiche, tutte disciplinate e messe al lavoro all'interno delle nuove forme produttive, rispetto alle quali è sempre più difficile identificare un conflitto focale, un luogo centrale del conflitto, da una parte. Dall'altra parte, i processi di globalizzazione, soprattutto i processi di transnazionalizzazione delle imprese, questo fenomeno di trasferimento in una molteplicità di stati nazionali, di segmenti di ciclo lavorativo, questo processo per cui è possibile oggi ipotizzare che una impresa abbia la propria testa, il proprio centro direzionale a Torino, a Milano o a Detroit, ma che compia la propria, i propri processi di ingegnerizzazione, di progettazione in India o in Malesia, che dislochi i propri servizi finanziari a Hong Kong, a Singapore e che magari localizzi le proprie linee di assemblaggio nei distretti speciali cinesi, dove si lavora sotto il comando di macchine, sotto il comando telematico di computer dislocati magari in India. Ecco, questa nuova forma della produzione, questa nuova dimensione transnazionale dell'impresa da una parte e i violenti processi di finanziarizzazione del capitale, l'emergere di una massa di capitale astratto, sempre più gigantesca e crescente in progressione geometrica, quel tipo di capitale che scambia ogni giorno 1,5 milioni di miliardi di lire, l'equivalente di 1,5 milioni di miliardi di lire su quella gigantesca piazza telematica che si apre appunto con Tokyo e si chiude con Wall Street e che è in grado di travolgere qualsiasi politica economica nazionale. Ecco, l'insieme di questi fenomeni, questa capacità del capitale di emanciparsi dalla territorialità, a cominciare dal territorio dello Stato nazionale, di assumere una dimensione deterritorializzata, infinitamente più ampia, dal raggio infinitamente più ampio del raggio della politica, quale noi conosciamo oggi, perché il luogo della politica è lo Stato nazionale, l'emergere di questo nuovo rapporto, di questa separazione tra lo spazio dei poteri economici e lo spazio del potere politico, mette duramente in scacco lo Stato nazionale, non nel senso che lo estingue, magari lo estinguesse, si avvererebbe in qualche modo il progetto marxiano dell'estinzione dello Stato. No, lo trasforma però, mette in scacco duramente quella che era stata la funzione novecentesca dello Stato nazionale, cioè di grande mediatore delle risorse, di redistribuzione delle risorse, di base fondamentale del patto, del fondamentale patto socialdemocratico tra capitale e lavoro, che è quello che ha retto e costituito la costituzione materiale delle nostre società contemporanee. Oggi lo Stato non è più in grado di esercitare neppure quel minimo di sovranità sulla propria ricchezza nazionale e quindi di ridisegnare il profilo delle classi sociali e di realizzare quella forma appunto di mediazione che permetteva di regolare il ciclo del capitale facendo affluire risorse monetarie alla domanda e nello stesso tempo di fornire sicurezza sociale e accesso a consumi opulenti alla forza lavoro. Oggi il rapporto capitale-territorio è un rapporto complesso, il processo di globalizzazione non è un processo di indifferenziazione territoriale, è un processo di deterritorializzazione dell'impresa e di riterritorializzazione del lavoro, è un processo nel quale il capitale funziona costantemente come pompa aspirante dei livelli di socialità territoriale in cui il capitale mette al lavoro la rete della socialità territoriale, il nord-est è evidentissimo, tutti gli elementi, dalla famiglia, ai rapporti di vicinato, ai rapporti di parentela e così via, sono messi al lavoro dentro il processo di valorizzazione capitalistica e di queste risorse, risorse non più solo di forza lavoro ma anche di investimento soggettivo, nella grande fabbrica toyotista si chiede la pratica del dono per certi versi agli operai, si chiede fedeltà, si chiede mobilitazione intellettuale, adesione ai fini dell'impresa, l'insieme di queste risorse anche soggettive vengono astrattizzate, essiccate per così dire e messe in rete nel processo di valorizzazione del capitale finanziario globale, con un processo costante di impoverimento del territorio, di dissoluzione di rapporti sociali sul territorio e di valorizzazione di un capitale del tutto irresponsabile dal punto di vista del territorio. Ecco, io credo che sia difficile non vedere come l'insieme di questi processi vada a colpire al cuore il paradigma basato sul conflitto di fabbrica, partito di massa, Stato nazionale, e come ponga drammaticamente il problema di ridefinire, riformulare una strategia di trasformazione radicale della società, che parta esattamente da quest'ultimo punto che ho indicato, dal ruolo cruciale e delicato che la socialità è venuta ad assumere. In fondo il movimento operaio novecentesco aveva un rapporto relativamente semplice con la socialità. Si trattava di rappresentare soggetti collettivi che lo sviluppo capitalistico andava producendo, aggregando, disciplinando, o di rappresentare soggetti che i processi storici avevano formato, i contadini per esempio. Ma comunque si trattava di intervenire su processi sociali aggreganti e dare ad essi coscienza e rappresentanza. Certo, produceva anche socialità il movimento operaio tradizionale, i Festival dell'Unità sono un esempio classico di produzione di socialità, la vita comunitaria delle sezioni è un esempio classico di produzione di socialità, ma che era prodotta come prodotto secondario, come prodotto succedaneo. C'era un processo gigantesco di generazione di consenso politico che aveva anche in qualche modo come sottoprodotto la generazione di socialità. Ma perché in fondo la socialità era una risorsa ampiamente distribuita, ampiamente presente nel sociale. Io credo che oggi si ponga invece proprio in rapporto la nuova forma del processo di accumulazione capitalistico a questo rapporto dialettico tra territorio e circuito globale, territorio luogo della concretezza sociale, circuito globale, luogo della statizzazione che prevale e assorbe risorse che oggi al movimento operaio, comunque a chi intende costruire aree, per usare ancora una formula di Aldo Bonomi, di non identificazione con l'economia generalizzata, spetti il compito primario di generare socialità. Di generare socialità, chiamiamolo come vogliamo, legame sociale, ricomposizione, riaggregazione di ciò che viene frantumato e scomposto dal ciclo produttivo capitalistico. Chiamiamola come vogliamo, non mi interessano i termini, ma credo che mi interessa il concetto invece. Senza questa risorsa non c'è politica, non c'è antagonismo, non c'è resistenza. Così come senza resistenza non c'è socialità. Io credo che i due termini vadano oggi coniugati strettamente, in modo tale da costruire un circuito che metta insieme conflitto, resistenza, innovazione, socializzazione, generazione di risorse capaci di operare ricomposizione, che gli strumenti tradizionali non colgono. Non è il sindacato di Cofferati, sempre più in qualche modo istituzione, ma non perché io odi le istituzioni, ma sempre di più casa di qualcuno che esclude la maggior parte degli altri, in cui non rientrano più le principali figure produttive del post-fordismo. Questo io credo che sia il problema, e dentro questo problema si pone la questione degli strumenti, attraverso cosa produrre socialità, attraverso cosa rompere il muro di gomma della società del pensiero unico e recuperare livelli di conflitto capaci di generare quelle risorse che possano essere investite in produzione di socialità antagonistica. Io credo che su questo terreno si tratti di sporcarsi le mani, su questo terreno si tratti di procedere per prove ed errori. Il terzo settore è un luogo. È un luogo potenziale del conflitto nella società che viene. Non siamo noi che inventiamo il terzo settore, né saremo noi che lo costruiremo. Il terzo settore è una realtà specifica per certi versi del post-fordismo e corrisponde a molte caratteristiche di questo nel bene e nel male, così come la grande fabbrica meccanizzata corrispondeva nel bene e nel male al fordismo, all'epoca fordista, era luogo di produzione allargata di merci e di comando, ed era il luogo di produzione allargata di insubordinazione e di rivolta operaia. Allo stesso modo io credo noi possiamo considerare il terzo settore come una forma tipica del post-fordismo. Registra la crisi di egemonia per certi versi del mercato, e registra l'estenuazione della forma Stato nazionale come strumento di produzione, di integrazione sociale, di coesione, si pone come terreno su cui per certi versi viene generata e messa al lavoro una forza lavoro tipicamente post-fordista. Se noi guardiamo il tipo di forza lavoro del terzo settore, è il tipo ideale del lavoratore post-fordista, che un imprenditore post-fordista può desiderare: precario, flessibile, fortemente motivato, poco sindacalizzato, autosfruttantesi, per così dire, defiscalizzato, con un bassissimo costo, livello del costo del lavoro. E quindi il terzo settore è anche per certi versi luogo di agenzie di reclutamento di forza lavoro post-fordista, ma proprio per una serie di caratteristiche che erano presenti nell'analisi di Alfredo Salzano, che credo sia importantissimo tenere come scenario concettuale. Per il peso che in esso può avere, che in esso assume il rapporto di reciprocità, per il carattere non esclusivamente mercantile dello scambio che su questo terreno si apre, su questo, nei conflitti che nel terzo settore si possono aprire e nelle iniziative imprenditive che nel terzo settore si possono innescare, io credo che si possano liberare energie di ricomposizione e di messa al lavoro di energie antagonistiche, soprattutto che si possano innescare processi di ricomposizione che non possono che avere il territorio come luogo specifico. E credo che l'insieme di questi problemi vada delineando quello che è il carattere nuovo del conflitto che si profila in un contesto post-fordista, non più un conflitto come quello fordista per la redistribuzione di risorse crescenti generate nei punti centrali del processo di accumulazione capitalistico, rispetto al quale il conflitto tendeva a redistribuirle in modo diverso rispetto al quale il mercato automaticamente avrebbe fatto, ma conflitto per intercettare risorse sociali espropriate dal meccanismo globalizzato dell'economia generalizzata e rimetterle al lavoro nella composizione di classe in funzione di valorizzazione e ricomposizione. Da questo punto di vista i discorsi sulla riduzione drastica dell'orario di lavoro, i discorsi sul salario di cittadinanza, i discorsi sull'auto-organizzazione, sui processi di auto-organizzazione sul territorio, sono tre aspetti che a mio avviso possono ricomporsi nel definire una strategia antagonistica adeguata al livello dello scontro attuale.